episodio 5. Benvenuti in nuovo su Nerdcast, episodio numero 5, benvenuti da me, Francesco. Su Nerdcast, podcast che si augura di essere nerd. Parliamo un po' del mondo giapponese, dei videogames, manga, anime, quello che ci capita, insomma, condito tutto con un bel po' di rock podsafe. Direttamente da jamendo.com. Prima di iniziare, ovviamente i saluti, i ringraziamenti più che altro ai altri podcaster che mi hanno supportato in queste ultime due settimane, come per esempio gli artist di Sproloquiocast, anche Matt di Nowherecast, anche Alessandro di Ruggicast, almeno spero che sia stato lui a lasciare il commento sul sito, e come sempre anche a Julien di Rockhouse, perché senza di lui, insomma, Nerdcast sarebbe finito molti episodi fa. E dunque, puntata abbastanza ricca, ma cerchiamo di non far sforare di nuovo nell'oretta, perché insomma dopo un'oretta e mezza i podcast iniziano a diventare troppo lunghi, secondo me. E dunque facciamo finire prima la sigla e poi partiamo con un pezzo per la Jamendo dei All My Faults. Pezzo ha un titolo abbastanza lungo, il titolo è, ecco finita la sigla, il titolo è Error Abyss and the Pretty Accomplice, da jamendo.com, e un'altra cosa, ma ecco, no, ecco, la dico dopo che finisce la canzone, così ce la godiamo meglio. A bocca. We'll be right back. Questi erano gli All My Faults da giovendo.com. La cosa che dovevo dire prima, ma insomma i più attenti o coloro che hanno ascoltato le prime 4 puntate di Nerdcast se ne saranno già accorti, se n'è andato un ospite fisso delle prime 4 puntate, cioè Mr. Ronzio, che non c'è più purtroppo, o per fortuna, anzi per fortuna, perché insomma dall'ultima puntata mi è stato fatto notare da tutti, da chiunque, che insomma l'audio lasciava molto a desiderare. E vabbè, era una cosa che sapevo anch'io. Dunque mi sono rimboccato le maniche, ho aperto di nuovo il mio portafoglio nerd e insomma ho cercato di risolvere un po' il problema come ho potuto, e credo di esserci riuscito, cioè almeno nelle prove audio non ho sentito alcun tipo di ronzio. Adesso non si sa mai, però forse è sempre il mio computer che, non lo so, lo registra in una maniera strana, non lo so, ma che ne so. In ogni caso non c'è più, almeno per me, almeno per adesso. E microfono nuovo, scheda audio nuova, sperando che questo microfono non crei altri tipi di problemi. E diciamo un controllo dei volumi, spero migliorato un po', ecco, diciamo. Ho cercato di rimodernizzare un po' tutto il podcast, perché andando a riascoltare le puntate vecchie, insomma, non mi capacito come alcuni di voi l'abbiano potuto ascoltare tutte per intero, perché sono alcune parti sono davvero inascoltabili, cioè non è niente di comparabile ai podcast, insomma, più, diciamo, più famosi, tra virgolette. Quindi mi sono rimboccato le maniche e ho cercato di fare un po' quello che ho potuto. Dunque, siccome i responsi per riguardo la scorsa puntata sono stati quasi, anzi, tutti quanti positivi, e di questo, insomma, sono abbastanza felice, continuiamo con le nostre notizie nerd, sia sul mondo dei videogiochi, sia sul mondo del Giappone, sia anime, manga, eccetera. Poi, ecco, un'altra cosa. La scorsa puntata ho parlato del J-Rock, dicendo che mi sarei impegnato anche in questo caso per trovare qualche artista, diciamo, podsafe che facesse J-Rock. Mi sono scannato e non sono riuscito a trovare niente di free, ecco, perché un po' tutti gli artisti erano sotto contratto, altri insomma non si capiva, eccetera. I pochi artisti, insomma, J-Rock Podsafe, ecco, meglio, che non sono ancora sotto contratto, diciamo, gli ho mandato un'email ma non mi ha risposto ancora nessuno, quindi può darsi anche che per la prossima puntata di Nerdcast, o per che ne so, fra 2 mesi o fra un anno, potrò avere un responso positivo e far ascoltare un po' di J-Rock finalmente. Per adesso, insomma, non mi pare possibile creare un podcast fornito di materiale J-Rock esclusivamente, per quanto riguarda la musica, ovviamente. Dunque, per quanto riguarda invece le curiosità del mondo del videogaming, sono andato a scovare un articolo che avevo letto più o meno un anno fa, risalente appunto ad un anno fa, di Repubblica, fatto sui videogiocatori italiani, insomma delle percentuali sui videogiocatori italiani. E l'88% dei videogiocatori italiani, si intende sempre, non mondiali, è di sesso maschile. Vabbè, questo un po' si poteva intuire, che insomma i maschi, i ragazzi, ecco, sono i più giocatori. Anche se a dir la verità, personalmente conosco moltissime donne, o meglio ragazze, che si dilettano moltissimo e sono anche molto brave a giochi, soprattutto online. E in più il 30,4% dei videogiocatori è tra i 18 e i 23 anni, ed è la fascia dei giocatori più alta, poiché io credevo che, insomma, la fascia di videogiocatori più alta fosse quella tra i 14 e i 17 anni, invece no, è soltanto il 4,3%, cioè davvero nulla. Mentre anzi no, ho sbagliato. La percentuale più alta è quella tra i 24 e i 30 anni, del 34,4%. Praticamente chi, diciamo, i nuovi laureati, diciamo, chi è già nel mondo del lavoro gioca più degli altri, insomma, di chiunque altro abbia un'età minore o maggiore tra i 20, dei 24 e 30 anni. E insomma, la cosa un po' mi ha lasciato straniato perché, insomma, non conosco nessuno, quasi nessuno che abbia tra i 24 e i 30 anni che gioca così assiduamente ai videogiochi più di quanto lo facciano i miei amici o comunque io. Poi, vabbè, una maggioranza di studenti del 35%, gli impiegati del 20% e i liberi professionisti del 7%. Poi un altro dato molto interessante che, insomma, ci tenevo sin dalla prima puntata a dire è che generalmente l'idea del nerd è l'immagine, insomma, che la gente, le persone generalmente si fanno di un nerd è, insomma, l'immagine di di, che ne so, di un gobbo con gli occhiali, i capelli lunghi, eccetera. E che ovviamente non può avere uno straccio di ragazza, no? Ma insomma, questo non è assolutamente vero, perché sempre dalla stessa ricerca di Repubblica, il 46% dei videogiocatori sono fidanzati, il 42% single, il 12% è sposato e il 6% vive da solo. Dunque, la percentuale più alta, ovvero quella del 46%, è fatta di videogiocatori fidanzati, giusto? Questo giusto per sfatare, insomma, la credenza che i nerd siano tutti quanti senza ragazza, siano tutti quanti dei mostriciattoli, eccetera. Perché, anzi, io direi che negli ultimi anni il nerd sia anche non soltanto un nerd diciamo, dei videogiochi, ecco, videoludicamente parlando, ma sia anche. Cioè, un nerd si presuppone che sia anche una persona abbastanza intelligente, ecco. Quindi, diciamo che i nerd, quelli che giocano a Dungeons and Dragons o, che ne so, a World of Warcraft 24 ore su 24, sono persone con problemi mentali, ecco, non nerd. Diciamo questo, perché secondo me c'è una bella differenza tra nerd e diciamo persone che fanno del videogioco una filosofia di vita. Almeno questo è quello che credo io, perché io modestamente, diciamo, mi reputo un nerd e reputo nerd anche molte delle persone che conosco e sinceramente abbiamo tutti una vita normalissima, nonostante comunque giochiamo anche 4 ore al giorno ai videogiochi, non cambia niente, insomma, almeno io non sento questi cambiamenti. E infatti la stessa ricerca continua e dice che i nerd hanno molti altri interessi, come per esempio il cinema, la musica, sport, soprattutto i fumetti. E in media il 70% dei videogiochi italiani gioca 2 ore al giorno. E dunque, come dire. E sicuramente questo mi fa capire, o meglio ci fa capire, che in ogni caso un nerd non è una persona che dedica la sua intera esistenza seduto davanti allo schermo di una console o del computer a giocare, ma insomma è una persona, io direi, completa, nel senso essere appassionati di videogiochi vuol dire essere, non vuol dire solo essere appassionati di quel campo, ma secondo me spesse volte, il più delle volte vuol dire essere appassionati anche di campi analoghi, come appunto la musica, i fumetti soprattutto, film, cinema, dunque, eccetera. Dunque, ecco, quando soltanto questo, quando sentiamo parlare di nerd, sfatiamo la credenza generale che, insomma, il nerd sia questa persona totalmente fuori dalla società è inutile, perché anzi si rivela essere talvolta il contrario. Prima ho appunto fatto questa distinzione, no? Tra nerd e persona che invece dipende dai videogiochi, fa dei videogiochi la propria vita. E infatti mi sono ricordato di un'altra notizia che comunque risale a un po' di tempo fa, che insomma parla un po' dell'apertura del primo centro di riabilitazione. Aspettate che trovo la definizione giusta. Riabilitazione. Dove sta? Sì. Riabilitazione dalla tossicodipendenza o dall'alcolismo. No, questa è quella sbagliata. Dove sta? Beh, comunque, un centro di riabilitazione per i videogiocatori, diciamo che hanno una vita più all'interno di un videogioco che all'esterno. Dunque, i cosiddetti, tra virgolette, drogati dei videogiochi adesso possono essere ricoverati in cliniche apposite, ce ne sono tre in Europa. La prima che è stata aperta nel 2001 in Olanda e si chiama Smith and Jones Addiction Consultants, bell'inglese, sì. È un centro olandese, appunto, che si occupa di curare le dipendenze da disintossicazione, praticamente da joystick, diciamo così. Il processo, però, è la cosa più interessante, perché secondo me è totalmente idiota. Cioè, non riesco a capire in che senso la cura possa avvenire in questa maniera. Cioè, il programma di cura dura 8 settimane e include escursione all'aperto, attività fisica e cura a base di psicofarmaci. Fino a qua, insomma, va bene. Insomma, l'escursione, l'attività fisica fa parte anche del fatto di doversi reintegrare un po' all'interno della società, no? E soltanto che è diciamo, uno strumento di cura alternativo, oltre all'attività fisica, è anche lasciare per un mese intero, insomma, questi dipendenti da videogiochi tra i boschi dell'Olanda e della Germania, e praticamente lasciarli sopravvivere da soli. Insomma, in un certo senso lasciarli amalgamare alla realtà per vedere se, insomma, in queste 8 settimane da soli all'interno dei boschi questi, diciamo, videogiocatori sotto cura riusciranno a sopravvivere in un certo senso. Ma sinceramente non so quanto questa opzione di lasciare liberi così dei videogiocatori che magari essendo comunque persone giovani vengono lasciati nei boschi dell'Olanda a vagare per 8 settimane e insomma poi vengono in un certo senso raccolti dopo queste 8 settimane per vedere se la terapia ha funzionato. A me sembra abbastanza barbara, insomma, come soluzione per curare dei ragazzi, perché ovviamente si parla di ragazzi dipendenti da qualcosa. E non soltanto, io dico, non parlo soltanto di dipendenza da videogiochi, ma parlo di dipendenza in generale, cioè come esistono delle cure più umane, diciamo, per i dipendenti da alcolici, da droghe, eccetera. Insomma, possono esistere delle cure sicuramente più semplici, credo, e meno barbare di lasciare dei ragazzi vagare in Olanda, nei boschi dell'Olanda e della Germania, così 8 settimane, e procurarsi da mangiare da soli, eccetera. In più, il sito dell'istituto, diciamo, presenta anche le cause della dipendenza dai videogiochi, e sono soprattutto quattro, ovvero pensieri ossessivi nei confronti di se stessi o di altri soggetti, problemi di salute, seri problemi relazionali, vabbè, qua si può capire, e problemi di inserimento scolastico o lavorativo. E in questo caso diciamo, il problema non deve essere ricondotto solamente al giocare assiduamente ai videogiochi, ma può essere ricondotto a molti altri casi. Diciamo che moltissimi all'interno di questo istituto sostengono che il gioco è una vera e propria droga, insomma, dalla voce dal direttore della struttura, che è tale Kit Bucker, i videogiochi sembrano innocenti, ma in realtà possono dare dipendenza al pari del gioco d'azzardo e delle droghe. E i soggetti colpiti hanno un'età compresa tra i 13 e i 30 anni e passano circa 16 ore al giorno davanti allo schermo. Dunque, questo ovviamente riporta nuovamente il discorso, cioè fin quando si ha un clan o una gilda in un gioco online, e insomma per varie questioni che diciamo soltanto i nerd possono capire, legate appunto ai clan o alle gilde, si possono anche fare delle sessioni di gioco lunghe 8 ore. Però sì, ovviamente 8 ore al giorno, però ecco, giocare 16 ore vuol dire saltare la scuola, ovviamente per i più giovani, anche l'università, ovviamente, e anche il lavoro, cioè saltare tutto quanto, esternarsi completamente e dedicarsi al gioco. Dunque bisogna delineare un po' una linea di confine, no? Diciamo che fino a quando un ragazzo, per problemi, ma diciamo problemi tra virgolette, ecco, diciamo per impegni di gilda, di clan che sia, insomma, gioca per 8 ore, anche non consecutive, io, almeno io che vivo in questo mondo, posso anche capirlo, cioè posso anche capire un pomeriggio intero passato a videogiocare, cioè alla fine, almeno a me, non ha mai creato nessun tipo di problema mentale, almeno credo. E diciamo nessun tipo di problema con con la relazione, insomma, con le altre persone. Dunque, finché si tratta di giocare, insomma, in una fascia oraria fino alle 8 ore al giorno, secondo me va anche bene. Dopo, quando, insomma, si inizia a rifiutare i pasti, si inizia a mangiare soltanto davanti al computer, a non alzarsi più dalla sedia, eccetera, è ovvio che bisogna iniziare a preoccuparsi abbastanza, diciamo. Diciamo che però fino ad ora altre cure, oltre a quelle già elencate, insomma, quelle di fare attività fisica, di prendere dei medicinali o purtroppo di essere lasciati in un bosco, non sono state trovate più altre cure, almeno fino ad ora, ed è un po' strano perché, insomma, la dipendenza da videogiochi è, diciamo, è abbastanza diffusa nel mondo, non tantissimo, però abbastanza. È l'unica clinica, appunto, questa clinica Smith & Jones, che è aperta dal 1991, non ha trovato nessun altro tipo di modo per curare un po' questa dipendenza. In più, ci sono altri sintomi in cui si possono manifestare, insomma, in cui si può manifestare la dipendenza dai videogiochi. Sono ovviamente ansia, attacchi di panico, disturbi del sonno, che poi sono sempre sintomi anche della depressione. E dunque, in un certo senso, questo mi fa pensare che alla fine la modalità di cura tra la cura depressiva e la cura da dipendenza da videogiochi possono essere simili e non, diciamo, barbare, ecco, diciamo in questa maniera, perché Insomma, ancora mi risulta molto difficile pensare che, soprattutto in Cina, dove il tasso di dipendenza da videogiochi è il più alto nel mondo, non siano state create delle manovre, in un certo senso, per creare la dipendenza da videogiochi, perché io lo so perché comunque conosco vari elementi, ecco, che hanno sofferto di dipendenza da videogiochi. Ecco, diciamo che è strano che non siano state prese delle precauzioni un po' per prevenire un po' questa dipendenza. Le uniche precauzioni che si trovano prestabilite, tra virgolette, possono essere trovate per esempio all'interno dei manuali dei giochi, insomma, che dicono di fare un quarto d'ora di pausa. Ogni 2 ore di gioco consecutive, oppure dicono di non stare troppo vicini, troppo attaccati allo schermo, però sono cose che non legge e non rispetta quasi nessuno dei videogiocatori. E ovviamente il consiglio che do a tutti, ma alla fine è una cosa che tutti possono capire da sé, è di smettere, neanche fare una pausa, ma proprio di smettere di giocare quando sintomi come quelli che ho elencato prima vengono a verificarsi. Va bene, allora mettiamo una canzone. Questi sempre da Jamendo sono i De Nuri con Masquerade. Running dry. Denuri con Masquerade. E non mi ricordo se all'inizio della puntata ho accennato al fatto che oggi ho la febbre. Quindi, insomma, mi scuserete se disconnetto un po' mentre parlo, perché mi è capitato anche prima mentre parlavo. E mi ritrovavo spaesato, non mi ricordavo più cosa stavo dicendo. Quindi, ho un po' di mal di testa, però, insomma. Siccome le 2 settimane dall'ultima puntata di Nerdcast sono passate, non potevo far aspettare più di tanto la registrazione, quindi anche con la febbre mi cimento un po' con la registrazione. Dunque, se vi ricordate, la scorsa puntata abbiamo introdotto le parodie. Che sono appunto delle parodie di videogiochi fatte col sintetizzatore vocale più usato dai podcasters. E ovviamente anche questa puntata, anche per questa puntata ho preparato la parodia. Si tratta della parodia di Duke Nukem. Duke Nukem è un videogioco abbastanza vecchio in realtà. Forse i più giovani non lo conosceranno, parlo io, insomma. Però è uno sparatutto. Uno sparatutto, appunto, è uno sparatutto in prima persona. Ha fatto molto successo, grazie appunto al fatto di essere uno dei primi giochi davvero trasgressivi, ecco, diciamo così, a vendere tanto e insomma ad apparire proprio come gioco su PC, perché appunto il primo vero Duke Nukem, ovvero quello che ha fatto più successo, era esclusivo solo per PC. Quindi un po' in un certo senso prende l'eredità che aveva Doom, che è un altro FPS appunto che era uscito anni prima, qualche anno prima di Duke Nukem, e infatti nella parodia un po' scherzato su questo. E poi vabbè, fino ad arrivare ai giorni nostri, fino a qualche mese fa, dove l'attesissimo Duke Nukem Forever, che era appunto il seguito di Duke Nukem versione diciamo next gen, è stato cancellato dopo almeno, non vorrei sbagliare, almeno 8-9 anni di attesa da parte di tutti i fan di Duke Nukem, compreso me stesso, insomma, il sottoscritto che con Duke Nukem, insomma, c'è cresciuto, diciamo così. Dunque, parodia numero 2, Duke Nukem. Enjoy! Duke Nukem. Detto anche il Duca, anche se non si è mai capito di cosa. Duke Nukem è uno sparatutto in prima persona, dove il personaggio principale si ritrova a fronteggiare i poliziotti maiali mutanti e nello stesso tempo visiona un film porno dove lui stesso è il protagonista. Per aver cercato di rubare il posto da protagonista al fratello Doom, Duke Nukem venne arrestato dopo aver floppato col suo gioco in 2D, perché la grafica non permetteva di notare tutti i suoi muscoli da culturista e la sua spazzola ossigenata. Così negli anni di carcere Duke Nukem passò tutto il tempo a fare flessioni per diventare sempre più pompato, prendendo spunto dai film di Schwarzenegger e cambiando il suo look, aspettando che qualche produttore di videogiochi lo notasse. Così non fu, poiché il nostro Duca si rese conto che il poliziotto che lo sorvegliava era diventato un maiale mutante con la febbre suina. Così Duke sfruttò l'allenamento a cui si era sottoposto durante la sua prigionia, e dunque grazie ai suoi capelli a spazzolona riuscì a rompere la porta della sua cella, iniziando a pestare i maiali mutanti, non sapendo di contrarre la suina. Così, appena uscito di prigione, il nostro Duca, per prima cosa, si reca al suo cinema a luci rosse preferito, invece di rendersi conto di essere l'ultimo uomo rimasto in vita sulla Terra. ma inizia a venirgli qualche sospetto quando nota che l'uomo che vende i biglietti ha la forma di un serpente con la cresta punk, e gli altri spettatori del film, comunque interessatissimi, sono completamente nudi e con organi genitali diversi da quelli canonici degli esseri umani. Così il nostro spazzolone, realizzando che tutte le donne del pianeta erano diventate mutanti, prese un fucile che trovò nel bagno del cinema e iniziò a massacrare tutti per sfogare la sua rabbia. Da qui inizia la controversa storia del povero Duke, che si troverà più volte a pestare i poliziotti maiali mutanti, fino al boss finale che si rivelerà essere il suo stesso fratello Doom, il quale ormai era diventato troppo obsoleto e aveva iniziato ad ingrassare così tanto da trasformarsi in un maiale e dare dunque inizio all'epidemia suina. Duke Nukem rimane comunque un gioco molto criticato e censurato a causa dei contenuti a volte troppo forti. Infatti non si è mai capito che cosa ci facessero alcuni nemici sopra il cesso dei bagni, o perché spesso e volentieri visionassero film over 18 senza neanche pagare il biglietto. In più, il fatto che i poliziotti maiali mutanti avessero tutti una maglietta della polizia, ha portato molti poliziotti a diventare come Doom e lasciare la loro carriera. Alcuni eretici commettono il sacrilegio di affermare che i muscoloni del duca siano fatti di plastica, e che la sua spazzolona anni 60 sia in realtà un segno del fatto che Duke sia Elvis con i capelli tinti. In ogni caso, molti anni or sono, venne annunciato il seguito del Duca Next Gen. Il problema è che i ragazzi che a quel tempo lo aspettavano con impazienza adesso sono tutti diventati nonni e hanno lasciato ai loro nipoti il pesante onere di giocare a Duke Nukem Forever quando esse uscirà. Il Duca, riguardo alla questione, si è scusato dicendo che ancora non esiste un motore grafico in grado di rappresentare al meglio tutti i suoi muscoloni in alta definizione. Alcuni saggi invece credono che Duke, ovvero Elvis, sia scappato e abbia formato una band di rock giapponese. Mentre altri credono che l'avvento della febbre suina sia un segno dell'imminente ritorno del Duca. O almeno dei poliziotti maiali mutanti. Bene, dopo la parodia di Duke Nukem, passiamo a parlare un po' del Giappone, appunto. Il Giappone che, io lo ripeto sempre, il Giappone è un'isola, non è una penisola, dunque non è attaccata alla Cina, ma è un'isola. Lo dico non perché credo che voi non l'abbiate capito, comunque non lo sappiate, ma perché davvero non passano due o tre giorni che parlando di Giappone con una persona, insomma, vengono fuori discussioni sul fatto che il Giappone sia un'isola, che non dipende dalla Cina, eccetera. Insomma, per i fan del Giappone questo è davvero seccante sentirselo dire. Dunque, l'altra volta ho provato ad andare al sushi bar, che non è un vero e proprio ristorante giapponese, e sono rimasto abbastanza esterrefatto dal fatto, appunto, che nonostante io sia un nippofilo abbastanza diciamo abbastanza dedicato un po' alla cultura giapponese, non riuscivo a capacitarmi del fatto che non capivo praticamente niente di quello che ci fosse scritto sul menu. Dunque, sapendo soltanto la parola sushi e okonomiyaki, non ho fatto proprio una cena abbondantissima, anche perché insomma il ristorante cinese era abbastanza caro, ma questo che vuol dire? Che subito dopo la mia esperienza al ristorante giapponese, anzi scusatemi, ecco, faccio anch'io confusione a volte, al ristorante giapponese, sono andato a vedere un po' appunto le portate, insomma, principali, soprattutto quelle non conosciute, che invece avrei potuto prendere un po', insomma, invece di prendere sempre il solito sushi, che comunque, insomma, è molto molto buono, insomma, chi non l'avesse mai provato, vi consiglio di recarvi a un ristorante giapponese rinomato, ecco, perché insomma per fare il sushi ci vuole anche molta esperienza, e di provarlo, perché so che può essere, può sembrare scontato, insomma, entrare in un ristorante giapponese e ordinare il sushi, e quindi, perché sushi è diciamo la pietanza principale, eccetera. Però, insomma, c'è una buona differenza tra i vari ristoranti. Dunque, andando a cercare la cucina, un po' l'arte culinaria giapponese, mi sono reso conto che, insomma, le portate, i piatti della cucina giapponese sono davvero tantissimi. C'è una vasta quantità di piatti. Che comunque hanno il luogo comune di avere, diciamo, sempre più o meno gli stessi ingredienti, però diciamo agglomerati in modo diverso, diciamo così. In più sono venuto a sapere che i cinesi e dunque anche i giapponesi hanno una grandissima cultura per gli spaghetti e degli spaghetti. Difatti, la maggior parte delle loro pietanze, se non sono a base di pesce crudo, sono comunque accompagnate sempre dagli spaghetti. Insomma, ne esistono ovviamente vari tipi. Diciamo, ce ne sono, diciamo, tre principali, tre pietanze di spaghetti principali. Più che altro, ecco, non sono chiamate proprio spaghetti. Ma noi li chiameremo spaghetti giapponesi. Diciamo, questi spaghetti giapponesi formano una triade ed è composta appunto da ramen, soba e udon. Il ramen, per chi conosce insomma un po' l'anime e il manga di Naruto, insomma saprà che tipo di pietanza è. Diciamo che è zuppa di carne con spaghetti, con uova. Con aggiunta anche diciamo vari tipi di pesce. Sinceramente non so se crudo o meno. Per esempio, una curiosità sul ramen è che una tipologia di pesce che viene diciamo introdotto nella ricetta del ramen si chiama Naruto. Infatti è da qua che, insomma, Kishimoto, che è il disegnatore di Naruto, prende il nome, ha preso proprio ispirazione per il nome del manga di Naruto. Dunque bisogna ringraziare un po' la pietanza del ramen, degli spaghetti giapponesi, se, insomma, Naruto ha il suo nome di adesso. Dopo il ramen, che diciamo tra le tre tipologie di spaghetti è la tipologia più famosa, ecco, diciamo così, c'è anche il soba, che invece non è in brodo, ma è servito su una sorta di contenitore quadrato fatto di bambù. Dunque, immaginatevi un piatto quadrato, un piatto appunto piatto, quadrato. Fatto di bambù, dove insomma vengono messi questi spaghetti di grano. Diciamo, sono accompagnati soprattutto da salse a base di uova, cipolle e soia. Soba io non l'ho mai sentito. In ogni caso, se andate a cercare soba, proprio scrivendo soba su Google o da qualunque altro posto, cercate le immagini, insomma, è strano vedere questi spaghetti messi a mo' di piramide su queste aste di bambù. Per esempio, io non saprei come mangiarle, perché soprattutto perché vengono messi sul bambù e non su piatti normali, normalissimi, come quelli che usiamo noi. L'ultima tipologia di spaghetti sono udon, che sono sempre spaghetti di grano, però più spessi. Anzi, sono degli spaghetti, non sono veri e propri spaghetti, almeno quello che dico io di italiano, vedendo le immagini, perché sono come Sì, è sempre una pasta lunga, però è molto, molto più grossa degli spaghetti. E per esempio, sarebbe scomodo da mangiare con le forchette. Infatti, si consiglia sempre di mangiarla con le bacchette. Se sapete come mangiare con le bacchette. Per quanto riguarda invece gli udon, la tipologia di spaghetti degli udon, ve ne sono insomma vari tipi che adesso non sto qua ad elencare perché credetemi sono davvero tantissimi e tutti diversi tra di loro. E tutte queste tre pietanze, e non solo, anzi diciamo anche queste tre pietanze, come tutte le altre pietanze della cucina giapponese, vengono accompagnate da una salsa molto famosa, diciamo forse la salsa più famosa del Giappone, che si chiama wasabi o wasabi, adesso non so la pronuncia nipponica, però insomma il wasabi è diciamo una salsetta, più che altro una pasta presa da alcuni pesci di cui non si sa il nome, di colore verde e dal sapore molto molto molto molto molto molto piccante. Dunque, questo non è un'informazione, ma è un avvertimento, perché io andando a provare il wasabi, così, cioè, credendo che fosse una salsa normalissima, sono praticamente rimasto abbrustolito per tipo 2 o 3 giorni e non riuscivo più a parlare perché la lingua mi si era diventata come diciamo un caminetto. Tutta la mia bocca era diventata un caminetto, cioè non riuscivo più a parlare, davvero, non sto scherzando. Dunque, il mio avvertimento è: se doveste mai andare ad un ristorante giapponese e incontrare sul vostro cammino questa salsa verde, vi consiglio di provarla davvero in minimissima parte, perché potreste rimanerne davvero offesi, diciamo così. E in più, questo lo si nota dal fatto che tutte le altre salse giapponesi, insomma, vengono portate in una certa quantità, mentre il wasabi è l'unica salsetta giapponese che vi viene data praticamente come un puntino, diciamo, una piccolissima quantità perché è davvero deleteria. Anche se si dice che insomma, il wasabi abbia anche delle proprietà, abbia anche delle proprietà diciamo positive per quanto riguarda il nostro corpo, il corpo umano. Si dice che abbia una funzione antibatterica e digestiva, che lo rende indispensabile quando si mangia il pesce crudo, che infatti, insomma, se viene cucinato male, diciamo che può portare in effetti batteri e disturbare la digestione. E in più, se presa in quantità eccessiva, può farla cremare. Io dico grazie che può farla cremare, perché è una cosa pazzesca. Presa in una quantità anche minima, è davvero pazzesco. Quindi ecco, fate tesoro del mio avvertimento perché, non lo so, alcune persone potrebbero, e non sto qua a scherzare, insomma, alcune persone potrebbero anche non sopportare, il gusto del wasabi e quindi, insomma, farsi molto molto male, diciamo così. Un'altra cosa per quanto riguarda il Giappone è il sistema scolastico giapponese, poiché insomma, parlandone un po' con i miei amici la volta scorsa, è stato introdotto il fatto che in Italia gli anni scolastici, e si intende gli anni che vanno dalla prima elementare, dal primo anno di elementare all'ultimo anno di liceo, siano, diciamo, molti di più di tutti gli altri paesi europei. E in effetti io sono andato a controllare, facendo un paragone con il sistema scolastico giapponese, e in effetti l'Italia, nei suoi 13 anni di scuola, è una delle nazioni, insomma, che fa andare i propri studenti a scuola più a lungo prima di iniziare l'università. Perché sono andato a vedere la scuola giapponese, sia perché ero incuriosito, sia perché, insomma, è opinione generale comune che la scuola giapponese con quella cinese sia il sistema scolastico più rigido, più duro. Ma in realtà, andando a vedere, è molto simile alla composizione del sistema degli anni scolastici del sistema italiano, poiché, insomma, gli anni di elementari del Giappone sono 6 invece di 5, dunque esisterebbe anche una sesta elementare, e vanno dai 6 ai 12 anni. Poi anche qua esistono le medie, e anche in Giappone sono fatte di 3 anni, dunque dai 12 ai 15 anni, mentre qua diciamo quello che viene considerato il liceo, ma che in Giappone viene chiamato scuola media superiore. E mi sa anche qui da un po' di tempo, non ne sono proprio sicuro. Sono invece 3 gli anni di liceo, cioè dai 15 ai 18 anni. Dunque in totale faranno 12 anni, sì, 12 anni in totale del sistema scolastico giapponese contro i 13 anni del sistema scolastico italiano, insomma, si conferma essere, almeno da quello che vedo io, una nazione che tiene i propri studenti all'interno delle scuole per molto tempo. In più, l'insegnamento, le materie insegnate a scuola, nella scuola giapponese, sono quasi radicalmente diverse da quelle insegnate nella scuola italiana, diciamo europea, poiché, per esempio, non viene studiata filosofia, non viene data, diciamo, molta importanza alla storia, ma più che altro viene data molta importanza alla matematica, alla musica, all'informatica, alla lingua inglese, all'arte, eccetera. Ah, e soprattutto anche alle scienze sociali e alle scienze naturali. C'è poi da dire una cosa riguardo appunto l'inglese dei giapponesi, prima di passare alla prossima canzone che mi accingo a preparare. Zitto zitto, appunto c'è un problema, c'è un gran problema per quanto riguarda la pronuncia, proprio l'insegnamento giapponese, l'insegnamento dell'inglese ai giapponesi in generale, perché insomma, i giapponesi vengono reputati come tra i peggiori al mondo a pronunciare proprio l'inglese, a districarsi tra tutte le pronunce anglosassoni. Questo non lo so perché, però in effetti è così. Insomma, andando ad ascoltare i giapponesi che tentano di parlare in inglese, non si capisce quasi niente. Perché un po' tutti i giapponesi hanno questo problema di pronuncia dell'inglese, e questo è un po' un problema anche quando i turisti vanno a visitare il Giappone. Perché non dico proprio a centro di Tokyo, dove ovviamente insomma, la preparazione è eccelsa, ovviamente. Però anche nelle periferie o comunque nelle città come Kyoto, Onara, è difficile trovare un giapponese che sappia parlare correttamente e diciamo in modo abbastanza chiaro l'inglese. E in più, diciamo, dovrei parlare anche dell'università, del tipo di università e del mondo del lavoro del Giappone, ma mi sa di aver parlato anche abbastanza per adesso. E così, mandiamo un'altra canzone sempre da jamendo.com. Questi sono i Boss con Alice Death in Wonderland. Remplir ses veines, combler sa peine d'un accolade, produit de vie, voir au travers, un filtre de verre multicolore, une autre vie. Ho sforato l'ora e quindi mi devo affrettare. Durante la canzone mi era venuto un po' una curiosità, cioè chissà che effetto fa, diciamo, com'è registrare un podcast con l'ausilio di un'altra o di altre due o di altre tre persone. Perché sono abbastanza convinto che a causa della febbre, insomma, questa puntata sia uscita, diciamo, non come l'avrei voluta io. Perché ho avuto dei momenti un po' di vuoto e insomma l'ausilio di un'altra persona mi avrebbe evitato tutto questo, insomma l'avrebbe mascherato. Però qua sembra che, non lo so, i collaboratori scarseggino visto che tra i miei amici nessuno ha il tempo di aiutarmi e insomma non so dove altro andare a cercare uno o due collaboratori che insomma si uniscano a me in Nerdcast, che insomma abbiano le mie stesse passioni, magari introducano anche qualcos'altro, perché in giornate come queste diventa difficile in effetti andare avanti col podcast. Dunque, se all'ascolto c'è qualcuno che ha voglia di mettere su un podcast oppure non lo so, vorrebbe aiutarmi nella conduzione, insomma, io sarei più che felice che accogliervi, insomma, perché ovviamente condurre da solo sempre, cioè, ovviamente è sempre un divertimento, perché se io conduco il podcast è soprattutto per hobby, cioè per divertirmi. Però sono sicuro che più persone conducono un podcast, più divertente è per il conduttore farlo, insomma. Detto questo, insomma, siccome ho un'altra canzone da farvi ascoltare, ho gli argomenti che praticamente sono quasi finiti. Ma sinceramente non riesco proprio mentalmente a continuare a registrare. Volevo giusto lasciarvi con una piccola riflessione che ho fatto qualche giorno fa, perché avevo sentito due mie amiche che insomma discutevano sul fatto che la danza fosse uno sport, se fosse uno sport o se fosse un'arte. Insomma, una sosteneva che fosse uno sport, qualcun altro sosteneva che fosse un'arte, eccetera. E dunque la stessa cosa mi è venuta spontanea da chiedermi riguardo ai videogiochi, riguardo la musica, riguardo ai fumetti, eccetera. Cioè, mi sono chiesto, tutte queste cose che ovviamente a me piacciono, diciamo, sono reputabili come arte? E ci stavo pensando pure durante la riproduzione della canzone. E in effetti non lo so. Diciamo che soggettivamente parlando, sicuramente i videogiochi, i fumetti, la musica e tutto il resto per me sono al 100% e anche di più arte. Cioè, secondo me il significato di arte è, cioè, ciò che è arte per ognuno di noi è ciò che ci piace, comunque ci emoziona, in un certo senso ci appassiona, no? Si prende parte del nostro tempo, diciamo. E dunque, sì, cioè, so che può apparire strano e difficile reputare un videogioco come arte, però alla fine, cioè, molti videogiocatori, compreso me, vengono colpiti da alcuni videogiochi, non da tutti, però da alcuni in particolar modo, tanto che insomma sono portati a considerarli arte. Infatti io considero alcuni videogiochi che ho giocato, insomma, la mia carriera da nerd, come vera e propria arte. E stessa cosa un po' per i fumetti, cioè se è arte disegnare un quadro, è arte anche disegnare un fumetto, cioè il gesto è sempre quello. E stessa cosa soprattutto anche per la musica, cioè se no i musicisti non si chiamerebbero artisti. Mentre questo ovviamente è soggettivamente parlando, poi oggettivamente parlando, cioè se un po' la critica generale possa definire arte un videogioco, possa definire arte un fumetto o una canzone. Là è un po' più difficile secondo me, perché c'è da considerare il fatto che magari generalmente, un po' per tutti quanti, ovviamente un videogioco può non essere arte, però lo stesso discorso può essere fatto anche per un quadro, no? Un quadro antico, un quadro d'arte che, insomma, per la critica e generalmente per i libri proprio d'arte viene considerato come forma artistica. Però magari per qualcun altro può non essere considerato come arte. E dunque è un po' una cosa, è un po' un argomento abbastanza soggettivo, anche se io dico che generalmente la definizione di arte è, diciamo, la definizione di qualcosa che effettivamente, evidentemente, ci emoziona, insomma, ci piace e che noi consideriamo arte perché la consideriamo come qualcosa di supremo, diciamo, supremo rispetto a varie altre forme di arte. Nella realtà. Vabbè, siccome qua siamo quasi a 1:10 e come detto nell'apertura di podcast non mi piace dilungarmi più di un'ora, mandiamo l'ultima canzone dei B-Shake, anzi scusatemi, dei B-Shake con Insane, sempre da Jamendo.com. Oh, my life is so bad. insane.gmail.com. E noi siamo alla fine anche di questo quinto episodio di Nerdcast. E non credevo sarei stato capace di registrare anche con la febbre, ma a quanto pare ci sono riuscito. Lo riascolterò praticamente questo episodio appena mi sarà passata la febbre, perché voglio un po' rendermi conto di come ho delirato, insomma. E, un'altra cosa, spero di non aver creato diciamo dei problemi con l'audio. Mi era stato fatto notare anche da qualcun altro che, insomma, l'audio tra il parlato e le canzoni era sbilanciato. In effetti sì, era vero. Ho cercato di mantenere più o meno tutto sullo stesso audio, sullo stesso volume. Spero di avercela fatta, anche se credo di aver fatto un paio di volte qualche erroraccio, qualche pasticcio che può essere perdonato, anche perché non so se l'ho detto la scorsa volta, ma lo ridico giusto per scusarmi subdolamente. Insomma, credo di essere, tra tutti i podcast che ascolto, il più giovane podcaster, avendo soltanto, tra virgolette, diciamo, soltanto 17 anni. E vabbè, prima di concludere, ovviamente i contatti, come potete contattarmi. L'email, che è la via preferibile per contattarmi, cioè l'email è nerdocast@gmail.com, con una O tra nerd e cast. Twitter invece è twitter.com/nerdfaz, cioè dopo nerd FAZ. E questo che mi scordo sempre, cioè il sito, ovvero www.nerdocast.podomatic.com, che è il sito che credo che fra qualche settimana cambierò per questioni, insomma, di comodità. E cosa è rimasto da dire? Ah sì, spero che, insomma, il fatto di avermi ascoltato un'ora e un quarto con la febbre non vi abbia fatto venire voglia di cacciare il vostro abbonamento da Nerdcast. E perché, insomma, non lo so perché ho registrato con la febbre, non chiedetemelo. Insomma, sentivo di doverlo fare perché avevo tutto preparato perfetto da farvi ascoltare, tutte le canzoni, tutta la parodia, eccetera. Poi, insomma, sono caduto in questo stato di malattia e non potevo mica fermarmi, insomma. Quindi, insomma, ecco, sono andato contro la stessa febbre. Spero di non aver commesso nessun errore proprio, diciamo, parlando, insomma, e neanche dandovi le notizie, insomma. E anche se sono abbastanza sicuro che la mia cadenza sia sicuramente diversa dalle altre volte. Comunque, non voglio stare qua ad ammorbarvi con le mie malattie e tutto il resto. Se siete arrivati ad ascoltare fino a questo punto, vi ringrazio infinitamente. Vi ricordo di iscrivermi una mail, perché, insomma, perché sì, perché insomma, registrare Nerdcast mi piace molto. In più, se siete interessati a collaborare, dovete mandare un'email proprio adesso, in questo momento, mentre state ascoltando. E per il resto io vi rimando a Nerdcast episodio numero 6, sperando di guarire da questa febbre, dopo essere passati, ovviamente, credo, da Windows 7, sperando che Windows non crei troppi problemi con la registrazione. Ma perché dovrebbe, voi direte, ma con Windows non si sa mai. E detto questo, vi saluto, alla prossima, statemi bene, ciao ciao.